certo. E quasi viceversa sull'A, che poteva essere un Mi maggiore. C'è un capito? No, è quello il punto. Cioè, se proprio prendi più l'aspetto della quinta, dell'accordo sulla quinta, è molto meglio, ci leghiamo da... usciamo un po' dalla bossa nova pur avendone la settima più. Ok. Capito? E viceversa. Stessa cosa sull'A. Guardarti, perché tu non sei così.